Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Arrivati a Brescia con il blindato, una parte va direttamente allo stadio, mentre pochi altri, me compreso, vengono portati alla stazione per accogliere e scortare i tifosi veronesi. Arrivati, trovo i classici autobus arancio in attesa dei tifosi. Li sento avvicinarsi perché ci sono dei cori che rimbombano nell'edificio. Per me è tutto nuovo, compreso quegli sguardi poco rassicuranti e pieni di odio che mi ritrovo addosso. Sono Claudio, ho 38 anni, vivo in provincia di Milano, sono un libero professionista nel campo dell'edilizia, ho una compagna che ha un bimbo. Caro Matteo, visto che oggi parli di tifo, ultra e celerini, voglio raccontarti la mia storia. Dal 1991 al 1994 ho fatto parte del direttivo della Curva Nord di Milano. Sei interista, quindi sai di cosa parlo. Io da quel mondo sono uscito e ne sono uscito nauseato, deluso, perché il mondo ultra mi affascinava. Lo vedevo come un modo per fare gruppo, stare insieme, andare contro le regole, la società. Col passare del tempo ho iniziato a fare il pirla, anch'io, senza nemmeno rendermi bene conto di cosa stavo facendo e rischiando. Poi per fortuna sono cresciuto. Sono diventato padre e ho iniziato a pensare con la mia testa. Però ti scrivo per dirti che ho assistito di tutto in quegli anni. Patti con la questura per l'ordine pubblico, mancate contestazioni alla squadra, che sai benissimo come andava in quegli anni, in cambio di parecchi biglietti gratis. Patti con l'FS, treno intatto in cambio di viaggio gratis. E il capo che si arricchiva. Se poi aggiungi che mentre alcuni ragazzi si scannavano, i capicurve si telefonavano e facevano le riunioni sulla testa del tifoso, fai i tuoi calcoli. Ciao. PS, se per caso decidi di leggere parte di questo messaggio, ti chiedo di non dire il mio nome. Sai com'è? Non vorrei trovarmi vagonate di tifosi, lama in mano, sotto casa. Questa mail mi è arrivata questa mattina dopo che ieri, in chiusura di programma, come sempre succede, lancio la puntata di oggi, cioè la puntata del giorno dopo. E questa mattina mi è arrivata questa mail di una persona che avete sentito che cosa mi racconta. Mi racconta la storia del tifo visto da dentro. Ho voluto leggerla perché la storia di oggi è dall'altra parte della barricata. Parla di un giovane carabiniere di 20 anni, questo si parla di quasi 20 anni fa, che si trova di qua, da questi blindati e con le persone che negli stadi vanno domenica e spesso non sono proprio, diciamo, morigerati nel fare tifo. 349-238-6666. Oggi insieme a questa storia si racconta la storia di quando, se è mai successo a qualcuno di voi, a me è capitato qualche volta, di venire trascinati dal potere della folla, da quella sensazione di ebbrezza che si ha quando non si è da soli, quando si è in più di 10, 20, 100, magari 1000 persone o 10.000 e più, diciamo, è esponenziale, no? Cioè è direttamente proporzionale al numero di persone che ci sono intorno a noi, probabilmente la capacità di renderci più liberi, probabilmente, o meno liberi e fare le cose che fanno tutti. 349-238-6666, nel bene e nel male, ovviamente. Vi faccio un esempio, perché Francesca scrive: suonare di notte i campanelli di tutti i portoni, ok, non è troppo edificante da raccontare. Vabbè, Francesca, questo però, diciamo, chi non ha suonato il campanello di tutti i portoni suonando e scappando? Oppure Alessandro invece: ho ritrovato il piacere della preghiera in gruppo che in solitudine avevo perso. 349-238-6666. Oppure voi siete qui, @radio24.it. A questo a proposito, mi è venuto in mente poco prima di andare in onda e ho caricato un pezzo di questo documentario sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui. C'è un documentario molto bello che si chiama New York 77, The Coolest Year in Hell, l'anno più freddo, il più freddo anno dell'inferno, il più sì, o il più fico o il più freddo, Tiziano, dipende da come lo si vede. Anno in cui a New York succede di tutto, nasce il punk, forse nasce la disco music, se non ricordo bene. Il 77 è l'anno di The Summer of Sam, di questo maniaco che uccide, ed è l'anno del blackout di New York, quello famosissimo. Nel capitolo di questo documentario dedicato al blackout, che lascia al buio tutta la città, c'è proprio un pezzo in cui un poliziotto racconta con tanto di immagini quello che succede quando la folla scende in strada e persone normali, dice lui, casalinghe, impiegati, ragazzini, in gruppo e nel mezzo della folla sfondano le vetrine di Broadway, cioè la via centrale di Manhattan, e fanno la spesa. portano via televisori, stereo, entrano nei supermercati. Lui dice una cosa che ci fosse stata con la luce e fossero stati da soli, non avrebbero mai fatto. 349-238-6666. Abbiamo addirittura trovato un pezzo in cui si parla di un avvenimento che è diventato famoso nella storia all'inizio del 1600, che è l'episodio del forno delle Grucce, che qualcuno di voi ricorderà perché l'ha letta probabilmente nei Promessi Sposi, proprio quando Renzo Tramaglino si trova nella folla e fa cose che non è abituato a fare essendo Renzo Tramaglino. Magari se lo troviamo dopo ne leggo un pezzo, perché la cosa sembra più che altro interessante leggere i Promessi Sposi il 13 gennaio del 2012 alle 4:30 del pomeriggio. Insomma, tutto per dire che questa è la storia di uno che ha fatto il carabiniere e si chiama Claudio. Anno 2004. Servizio militare nei carabinieri. Ho appena finito i 3 mesi di CAR e la destinazione che mi assegnano è Battaglione La Marmora, Milano. Ho 20 anni, sono in un periodo della vita dove sono un po' sprovveduto e un tantino fuori di testa. Ho fame di vita e di esperienze, sono in divisa e avere una pistola nella fondina mi fa sentire forte, anche se sappiamo che sono armi che non useremo mai. Da 3 giorni aspetto il mio primo ordine pubblico allo stadio, Brescia-Verona, e devo dire la verità, sono eccitato. La partita è una specie di derby ed è molto sentita dalle tifoserie. Arrivati a Brescia, con il blindato una parte va direttamente allo stadio, mentre pochi altri, me compreso, vengono portati alla stazione per accogliere e scortare i tifosi veronesi. Arrivati, trovo i classici autobus arancio in attesa dei tifosi che sento avvicinarsi. Ci sono dei cori che rimbombano dall'edificio. Per me è tutto nuovo, compreso gli sguardi poco rassicuranti e pieni di odio che mi ritrovo addosso. Stare in mezzo a tutti questi tifosi che dentro lo stadio, anzi già da prima fuori, anche brave persone si trasformano poi in esagitati, e tutto questo in me ha creato un miscuglio di emozioni. Rimango esterrefatto alla vista dei mezzi che trasportano i tifosi, perché al posto dei vetri hanno delle reti metalliche e l'autista è chiuso dentro anche lui in una gabbia metallica. Mi dicono che tanto i vetri li spaccherebbero e l'autista rischierebbe la vita, invece con le sbarre è tutto più sicuro. I tifosi intanto salgono passandomi davanti e squadrandomi come se fossi il nemico. Quante persone può tenere un autobus? 50? Beh, se ne salgono 100 sono pochi. Il mio capitano, quando sono tutti dentro, belli schiacciati, guarda me e un'altra spina e ci dice: forza, salite. E io rispondo: ma dove? Lì sopra. Vi lascio immaginare la risposta e il tono e vi risparmio gli insulti. E certo, dovevamo salirci lì sopra. Noi eravamo quelli che avrebbero dovuto tenere a bada gli scalmanati in 2. E allora saliamo in mezzo a quell'orda di tifosi, nervosi e sudati. Avevamo tutti gli sguardi addosso. Se avessero voluto avrebbero potuto usarci come spazzolini per pulire per terra. Ma forse non avevano bisogno di complicazioni, non in quel momento. O chissà, forse gli facevamo solo pena. L'autobus parte, loro cominciano a cantare in coro "Chi non salta un bresciano è" e a saltare tutti insieme, che per fortuna quelli sono mezzi belli solidi. Visto da fuori il bus rimbalzava sull'asfalto. Ai vari semafori si affacciavano dalle inferriate per insultare chi capitava e sputare ai passanti. Devo ammettere, a volte faceva ridere, ma in generale direi di no. Finalmente arriviamo allo stadio sani e salvi e scendiamo. La partita va relativamente bene, il risultato è 1-1 e aiuta la gente a stare calma. Nessun vincitore significa che nessuno ha perso. Una patta che vuol dire che ci sarà da combattere al ritorno, quindi nessun problema di ordine pubblico. Solo che però i bresciani decidono di aspettare fuori i veronesi, perché certe cose non c'entrano con il calcio, ma con dei segreti misteriosi che rimangono nascosti nella testa di certa gente. I veronesi però vengono tenuti dentro lo stadio come precauzione, stando là dentro come dei reclusi, ma è un bene per loro. E allora, come capita in queste occasioni, la gente se la prende coi carabinieri. E i carabinieri, e me ne accorgo solo in quel momento, siamo noi. Noi da una parte, dietro le transenne, e loro dall'altra, con i sassi. Ci insultano, e lo posso tollerare, anche quando parlano di mia madre. Cominciano a dare fuoco ai cassonetti della spazzatura, e quello un po' mi spaventa. Fa l'effetto di una guerra. In quei momenti sì, un po' di paura si ha. Poi, tra virgolette, diciamo che a 20 anni, perlomeno per quanto mi riguarda, ero un po' sprovveduto, quindi questa paura si trasformava poi dall'altra parte in coraggio e in incoscienza. A quel punto arriva il capitano, la nostra guida, il nostro eroe, la persona a cui dobbiamo obbedire, e mi dice di andare a prendere i lacrimogeni e il fucile per spararli. Bisogna disperdere la folla. Io, in quanto spina, sono responsabile di quell'armamentario. E mi sembra che tutto sommato forse è anche una buona idea usare lacrimogeni. Due lacrime, un po' di fastidio e tutti a casa. Il capitano mi dice di caricarlo e tenermi pronto a sparare. Io sono agitato, ma carico e pieno di adrenalina. Alla fine odio quella massa di gente che per tutto il giorno mi ha squadrato e in quel momento mi avrebbe pure fatto male se avesse potuto. Senza motivo. Il capitano mi guarda e mi dice che devo sparare il lacrimogeno ad altezza d'uomo perché spararlo a parabola lo farebbe finire 200 metri oltre le case. E io penso a quello che ha detto mentre mi metto in posizione. Sparare ad altezza d'uomo, solo che se ne prendo uno in testa rischio di fargli male, veramente male. Forse potrei anche ucciderlo. Io sto lì, fermo, in posizione, molto preciso, ma non sparo. Il gruppo di tifosi per qualche strano motivo si calma e la situazione rientra, ma non certo per merito di quel lacrimogeno che io non ho mai sparato. Mi sono preso 2 settimane di consegna e gli insulti del capitano. Era così che cominciava il mio primo anno di naia. No, perché poi adesso è facile dire che sei tifosi del Novara, no? Perché in Serie A, perché a volte vince, a volte non spessissimo, però a volte sì. E perché è una bella storia che sta simpatica a tutti. Ma io che a Novara ci sono nato, conosco un sacco di persone che in realtà tifano Milan, Inter, Juventus, perché sono cresciuto che il Novara bazzicava nelle serie inferiori, e quindi in quei casi succede così. Tu tieni per la squadra della tua città, ma poi ne scegli una che è in Serie A e che magari ogni tanto vince qualcosa. In provincia funziona quasi sempre così. A tutti però rimane quella passione per i propri colori e soprattutto rimane la rivalità con la squadra del paese o della città vicina. Perché è la solita storia, nazione di campanili e tutti sono lì a far vedere chi ce l'ha più alto. E io, Claudio, lo capisco, perché da ragazzo ci andavo allo stadio e i carabinieri li vedevo, ci scortavano in trasferta e ci controllavano sempre. E non è mai successo niente, ma forse solo perché è andata bene. Perché in effetti un po' esagitato lo ero da ragazzo e qualche volta ci è mancato poco che finissi in una rissa con tifosi avversari. Non ce n'è mai stata l'occasione vera, però ero talmente scemo e pieno di ormoni della crescita che non mi sarei tirato indietro, penso, se qualcuno avesse dato il cattivo esempio. Andavo allo stadio in curva e alle trasferte in pullman, ovviamente. Erano gli anni della C2, che adesso non esiste più, ma che significava essere molto in basso nella lista delle squadre italiane. Il calcio mi piaceva e lo giocavo pure, ma quando andavo allo stadio non me ne fregava niente del bel gioco. Contava solo vincere, o almeno non perdere. I rivali del Novara sono sempre stati quelli di Vercelli. E Vercelli è sempre stata la trasferta più sentita, una roba tra piemontesi pieni di zanzare. E mi ricordo bene quella del 1989, perché fu un anno abbastanza speciale. Fu un calvario in realtà, perché a fine anno finimmo in interregionale, che è l'ultimo gradino prima della scomparsa. Avevamo perso uno spareggio contro il Pontedera, ma la cosa straordinaria, il miracolo, fu che ci salvammo per via di un ripescaggio. Perché la Pro Vercelli fallì e lasciò libero un posto, l'ultimo, che ci prendemmo noi. Proprio loro, la Pro Vercelli. Ed è stato durante quell'anno che sono andato vicino a menarmi con qualcuno. Che io ho un sacco di amici di Vercelli e non ho niente contro quella città, ma nell'89 fui felice, in parte, di quella disgrazia. E nel tifo succede. E forse ero così incattivito anche proprio per il derby, per quel derby lì che ero andato a vedere e che avevamo pure perso male. Eravamo in curva, guardate a vista da qualche decina di carabinieri, ma eravamo molto di più di loro e non c'erano le barriere protettive. E quando le decisioni arbitrali ci sembravano sbagliate contro di noi o quando i nostri giocatori si lasciavano fare gol, il nostro istinto era di saltare addosso a chiunque si fosse messo davanti. Tutti urlavano cori contro gli altri tifosi, contro la polizia, e io pure. E sentivo una rabbia strana che non avevo mai conosciuto prima. E chissà da dove mi veniva, ed era impossibile che fossero quei tizi in mutande sul campo. Non è successo niente quel giorno. Ma non è stato per merito del mio autocontrollo o della mia capacità di sopportazione. No, secondo me è stato solo per fortuna. Perché nessuno ci ha provocato. è perché nessuno di noi è stato così stupido da partire di corsa contro un nemico che non c'è. Perché in quel caso, mi sa, l'avremmo seguito tutti. Una volta a casa mi sono accorto che ero spaventato da quelle emozioni e da quel giorno andai sempre meno allo stadio. Poi smisi del tutto. Solo più avanti ho capito da dove arrivava quella rabbia. Ma questa è un'altra storia. Ecco, queste sono esattamente le storie che quando finiscono, cioè i racconti che quando mi arrivano e finisco di leggere, in realtà vorrei sapere di più. Vorrei capire cosa è successo dopo, vorrei capire cosa era successo prima, com'è che uno finisce a trovarsi in quella situazione e un sacco di altre domande. E quindi per fortuna arriva sempre il momento in cui posso chiederlo all'autore di questo racconto. Pronto Claudio? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Bene, bene, ti ringrazio. Senti, dove ti trovi in questo momento? Sei al lavoro, so? Sì, sì, sono nel cortile davanti al mio ufficio. Perché tu cosa fai adesso, Claudio? E io faccio il geometra, ho un ufficio mio e quindi cerco di tirare avanti in questi periodi. Cosa fanno i geometri nel 2012? Sempre villette di paese oppure... Ma in paese sì, si riesce ancora a fare la villetta, la palazzina, la ristrutturazione. Già in città cercano l'architetto per farla. Certo, perché tu, scusa, ricordami di dove sei, Claudio? Besate. Besate, che è provincia di... Provincia di Milano, è sul Ticino. Senti, invece andiamo al 2004, giusto? No, ho sbagliato l'anno, 1994. Allora, le cose che io vorrei capire è un po' il prima e un po' il dopo. Cioè, un po' il prima è un po' tu lo racconti nella tua storia. Perché uno decide di andare a fare il servizio di leva, cioè il servizio militare nei carabinieri? Nel senso che uno potrebbe in un qualche modo, vabbè, ormai non lo si fa più, però uno poteva imboscarsi, trovare un modo per fare robe che passavano sti 10 mesi. Invece lì avevi da fare. No, le motivazioni sono diverse, dal fatto di poter fare delle esperienze che non si fanno solitamente in un militare normale, perché stai in caserma chiuso lì a fare esercizi, o anche un po' più venali, perché uno arriva dalla scuola e dice vabbè, è un anno che dedico allo Stato e qua mi danno lo stipendio. Certo, perché di fatto sei pagato, ti ricordi quanto nel 94? Era 900.000 lire, un milione, una cosa così. Cioè uno stipendio sì, di calcolo che un militare normale prendeva 150.000 lire al mese. Certo, chiaro, sì, chiaro. Ma guarda, a conti fatti, per me il militare mi ha dato è un po'... il contrario, però mi ha fatto conoscere la libertà, perché arrivavo da casa, vivevo con i miei e lì invece avevo il posto in caserma, ma era come un lavoro, quindi potevo entrare e uscire come volevo. Senti, e volevi fare qualcosa e qualcosa poi ti sei trovato a fare, nel senso che ti sei trovato su un pullman con 100 persone urlanti, 100 tifosi direi, più che 100 persone, insieme a un altro tuo collega, e da quello che ci racconti è stato... Non è stata proprio tutta da ridere? No, anche perché quello è stato il primo stadio e tu prima di arrivare al primo stadio passano 4 mesi, dove vabbè 3 mesi di CAR e un mese dove ti preparano, se la tua destinazione è il battaglione, quindi fai ordine pubblico, ti preparano a... ti addestrano proprio a fare ordine pubblico. Cioè quindi stadi, manifestazioni... Esatto. Sì, in quell'anno lì poi ho fatto anche lo sgombro del Loncavallo, è stato quel periodo. Ti sei mai trovato a dover fare delle cose che contro cui, in cui ideologicamente non credevi? Diverse, dalle multe. Come le dove multe? Dare delle multe? Esimevo. Sì, certo. Mi rivedevo proprio nella persona che prendevo la multa fino al giorno prima, perché tanto perché io avevo 20 anni, quindi... Ma anche allo stadio la gente... Tu sei tifoso? Tu andavi allo stadio prima o dopo? Ma ci sono andato qualche volta, ti dico la verità, non sono un tifoso accanito, seguo il calcio e mi è venuta un po' la nausea proprio in quell'anno. Senti, invece, visto che dici cominciava così il mio anno di naia, poi com'è andato, com'è proseguito? Guarda, ne sono successe di ogni. Dimmene due. Vabbè, mi hanno spedito un mese a Locri. A fare cosa? da supporto alla caserma di Locri. Ah. E in quel periodo avevano fatto degli attentati a carabinieri e ne erano morti tre. Ah. E quindi non era proprio un bel periodo. E insomma lì è veramente un altro mondo. E poi ti sei fatti altri stadi dopo? Beh, stadi praticamente ogni domenica viaggiavo tra San Siro, Brescia, Bergamo. Brescia, Bergamo erano i più difficili, eh. Perché poi hai deciso di smettere? Ti hanno proposto di rimanere, tu avevi già deciso che non ci saresti rimasto? No, io avevo già deciso di non rimanerci, nel senso che le mie prospettive erano altre. Devo dire però che è stato veramente un anno pieno di esperienze e pieno di vita. Immagino. Senti Claudio, so che hai una riunione di lavoro, quindi ti ringrazio per il racconto, la chiacchiera, e ti lascio andare. Buon lavoro e grazie ancora. Io ringrazio te e complimenti ancora per la trasmissione. Ciao Claudio, grazie. Ciao. Voi siete qui. Due illustrazioni anche oggi che raccontano la storia di Claudio e del suo primo stadio. La prima è tutta sul blu e sul grigio e i disegni sono molto fumettosi, oserei dire, se ha senso quello che sto dicendo. E l'altra invece è più sanguigna, direi. C'è il volto di un carabiniere tagliato a metà, cioè disegnato a metà, e del rosso e delle facce cattive sullo sfondo. Sempre sul sito radio24.it, alla pagina di Voi siete qui. Qualcuno sul profilo Facebook, non ricordo più chi, sul profilo Facebook del programma mi ha scritto: ma perché le foto le descrivi in un modo e invece le illustrazioni dici sono solo belle o molto belle, tipo una roba del genere? Non lo so, però queste effettivamente sono della categoria belle molto belle, cioè stanno tra il belle e il molto belle. Sono di Mattia Riami e Luca Tintori. 349-238-6666. Però andate anche sulla mappa e date un occhio alla foto di Claudio, perché sembra un rocker uscito da un concerto rock degli anni 80, direi, probabilmente. E si sta rollando una sigaretta, sapete le sigarettine, quelle fatte a mano. 349-238-6666. Rivedo la mia stessa storia, Yuri da Torino, nello stesso periodo, solo che ero maresciallo dei carabinieri. Meno male che adesso vendo gelati. Ciao Matteo, mi sa che Claudio era lo stesso anno del mio stesso battaglione carabinieri, Massimo. E poi, a proposito, so bene di cosa parli, pur essendo sempre stato dall'altra parte della barricata, ancora oggi, dopo 32 anni di polizia, Gennaro, capitato, certo che mi è capitato, a proposito di due parti della barricata, ero un piccolo boss di una curva ultra per 5 anni e prima per 5 anni dall'altra parte come carabiniere, per fortuna con l'età si matura. Non so da quale parte della barricata intendi, Ale. E poi non solo suonare i campanelli in gruppo, ma bloccarli con la punta di uno stuzzicadenti. Devi scendere per toglierlo, è una bastardata. Effettivamente, non ci avevo mai pensato. Noi facciamo con lo scotch, però lo scotch dopo un po' mollava. E non ci crederete, ma alle 16:38 minuti di un venerdì qualunque, 13 gennaio 2012, mi faccio prendere dall'onda dei primi numeri, 13 gennaio 2012, state per sentire, letto in diretta, un pezzo dei Promessi Sposi. Perché quale episodio più giusto per raccontare quando ci si lascia trascinare da una folla, se non quello appunto dei tumulti del pane che sono avvenuti l'11 novembre del 1628 e che Manzoni racconta nel capitolo 12 dei Promessi Sposi. Non si vede che ho Wikipedia davanti, eh? Per niente proprio. Esattamente 11 novembre del 1628, nel 12° capitolo, ritorna la carestia, che ormai non è più solo sullo sfondo, ma è la causa principale dei tumulti di Milano. Renzo viene coinvolto in questi tumulti e in particolar modo nel tumulto del forno delle Grotte. Si slanciano ai cassoni, il pane è messo a ruba. Qualcuno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia a manate in tasca ed esce carico di quattrini, per tornare poi a rubare pane, se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini, mettono mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano. Chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e per ridurla a un carico da potersi portare via, butta una parte della farina. Uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli e un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori una calca composta di due processioni opposte, che si rompono e si intralciano a vicenda, di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. Mentre quel forno veniva così messo sotto sopra, nessun altro della città era quieto e senza pericolo. Ma a nessuno la gente accorse in numero tale da poter intraprendere tutto. In alcuni, i padroni avevano raccolto degli ausiliari e stavano sulle difensive. Altrove, trovandosi in pochi, venivano in certo modo a patti. Distribuivano pane a quelli che si erano cominciati ad affollare davanti alle botteghe, con questo che se ne andassero. E quelli se ne andavano, non tanto perché fossero soddisfatti, quanto perché gli alabardieri e la sbirraglia, stando alla larga da quel tremendo forno delle grucce, si facevano però vedere altrove, in forza bastante a tenere rispetto ai tristi che non fossero una folla. Così il trambusto andava sempre crescendo a quel primo disgraziato forno, perché tutti coloro che gli pizzicavano le mani di fare qualche bella impresa correvano là, dove gli amici erano i più forti e l'impunità era sicura. A questo punto erano le cose, quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porto Orientale e si avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Andava ora lesto, ora ritardato dalla folla, e andando guardava e stava in orecchi per ricavare da quel ronzio qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Solo su Radio 24 alle 16.42, ripeto, di venerdì 13 gennaio 2012, potete sentirvi Manzoni e Sid Vicious, i Promessi Sposi e i Sex Pistols, così un po' di punk e un po' di buona letteratura italiana. L'ho detta, buona letteratura italiana. Anche Manzoni aveva il suo modo di essere punk, forse. Forse, ancora non lo sappiamo. Renzo era punk. Renzo era un punk, certo, Renzo era un punk. In qualche modo, secondo me era più punk il bravo, come si chiama? Il bravo. No, Don Rodrigo non era il bravo, ragazzi. Don Rodrigo non era il bravo. Don Rodrigo era l'altro. Era il bravo, quello, ma non a parte che era l'innominato Tiziano e non l'innominabile. Basta parlare dei Promessi Sposi, perché stiamo facendo veramente delle brutte figure davanti a tutti gli esperti di letteratura che seguono questo programma e seguono soprattutto questa radio. È arrivato un messaggio che dice: sul movimento ultras c'è molta disinformazione e pochi hanno le conoscenze per parlarne. Io mi occupo da anni del fenomeno a livello giornalistico e sono diventato giornalista professionista discutendo una tesi sugli ultra. Va bene, vi riporto uno striscione che la dice lunga: né santi né criminali, solo ultras. Marco, grazie Marco. Guarda, non lo so, di fatto noi cerchiamo semplicemente di raccontare delle storie come al solito e non diamo giudizi di alcun tipo. Io però ogni tanto allo stadio ci vado e basta buttare un occhio alla curva per capire chi guarda la partita e chi no. E poi un'altra cosa che mi è successa, che non sapevo: un giorno, tornando in autostrada a Milano una domenica pomeriggio, mi fermo in un autogrill e incontro un autobus di ultras scortato dai carabinieri, dalla polizia, che sta tornando da una partita. È un autobus dei tifosi del Genoa che ha visto Bologna-Genoa. L'autogrill era praticamente barricato, cioè quando arrivano gli ultra gli autogrill vengono chiusi a chiave con delle transenne che chiudono tutti gli scaffali in modo che probabilmente loro non possano rubare. Io non so se loro avevano in mente di rubare, però ho la sensazione che se tu mi tratti come un animale, a me viene da comportarmi come un animale, anche perché io non ho potuto nemmeno prendere un Kit Kat che avevo semplicemente voglia di prendere. C'è un podcast per risentire questa trasmissione quando volete, come tutte le trasmissioni di Radio 24, è sul sito di Radio 24 alla pagina podcast, oppure andando su iTunes e scaricandolo gratuitamente con l'abbonamento, 5 puntate alla volta. Anche la puntata di oggi era la storia di Claudio, parlava di ultra. Quella di lunedì invece è la storia di Maria e parla di tempo guadagnato. Il capostazione fischiò ed alzò la paletta, ma questa volta ero comodamente seduta in uno scompartimento. Dopo qualche ora lasciai l'Austria e la Cecoslovacchia si annunciò con sterminati boschi di betulle bianche. Ero felice. Chissà cosa mi aspettava. Praga, 1976. Ciò che mi incuriosì subito alla stazione furono i soldati russi con le stelle rosse sulle mostrine. Ero a Praga, finalmente.